al calascio a luglio. La prima ottobre a questo d'ora devo andare a visitarmi da il dermatologo e vediamo cosa mi dice, cosa vuoi ti dica. Gesù. Insomma, non mi manca, ma c'ho le cataratte, devo andare, mi ha detto, prossimo mese, ho andato a pagamento mio all'oculista. E non sono posti, dice venga fra 6 mesi, vediamo se riesco a metterla in lista. Boh. Non so come viva a Santo Bucciami già. C'è la base di soldi adesso, se uno non c'ha soldi può anche morire. Sì, quell'amico mio dottore si è fatto l'assicurazione, lui e la moglie. Perché dice che arriveremo come in America, se non hai soldi non ti curano. Se l'esame di Rusango per la visita diabetologica la giuba che ha 38 euro, cazzo figurati, perché a gratis nulla, e sono esente io, però deve essere che la regione non li sta pagando e questi pure c'hanno ragione, te li fanno pagare gli esami del sangue, cosa vuoi ti dica? E dove le fatti Natalia, la teologia? Ehi, ma non ci vado più. Ma il dottore andare in via Pasubio che non pago nulla. E anche all'ospedale, dove c'è mio cognato, all'ospedale lì non paghi nulla. Sì, ma devi pigliare appuntamento, non ti risponde né manco, quando rimandi l'email, un casotto. All'ospedale ci sarei andato volentieri, cazzo la prima, ma c'è fatto la vena e tutto, mi sa, infimera. La voce sono andata a ripidare. Cazzo. Però è un problema per l'appuntamento in Chivi. È un casino. Ma vado in via Pasubio e me li faccio lì. Perché cazzo, ogni volta devo fare la visita diabetologica, devi fare gli esami del sangue, è poco di qua. E beh, come tutti, anche io, tra poco li devo fare io, il prossimo mese. Tra poco, cazzo, non avremo neanche più la diabetologa, perché la terapia te la fa la dottoressa tua, o il dottore tuo, ma la d'un foglio darà la dottoressa mia, il piano terapeutico. Ma ognuno c'è la sua specializzazione, la dottoressa tua non può darti dei medicinali, che loro sono specializzati per certe cose. Cosa vuoi ti dica? Già, tu sei buciurendi. Per carità, guarda. E uno alla fine ci rinuncia, perché se non può cosa fa? Se fa senza mangiare per fare le visite. Cosa vuoi ti dica? Giulio, l'attacco, 270 euro, più 30 euro di nostro conto, 300 euro. Non è buffonatura, no? È dovuto andare a pagamento di notte pure, a rinnovi di notte mi arriveranno in vato. Ma dimmi tu, uno manciano, c'è male a rinnovi di notte, fa una DAC, no? Vada, no? È a pagamento buro. E se uno non ha di là, cosa va? Disammatta? Appunto. Diciamo che queste cose dovrebbero essere un diritto del cittadino, essere curato. Sono cose basilari, non puoi cazzo non curarlo se non c'hai soldi. In America è così, se non c'hai soldi ti ammazzi, perché non ti curano, non esiste la sanità in America. O hai l'assicurazione o sei buttito. Assicurazione va tutto, va la macchina, va l'ISO, va l'altro. Io ne avevo già 3 di assicurazione, adesso ho cominciato a togliere un po'. Ne avevo 3, ne avevo anche per la casa, per questo, per l'altro, alla fine ho detto basta, anche da 350 euro di assicurazione. Sì, infatti. Oh yeah. La macchina addirittura l'hanno messa obbligatoria, l'hanno messa, la devi avere poi frutto, la macchina deve essere assicurata. Adesso anche se fermami, se ferma in un posto chiuso deve essere assicurata la macchina. Dimmi tu, a che punto se mi arrivendi? Infatti su internet c'era questo che praticamente aveva un garage enorme con tante macchine d'epoca, addirittura c'era quella di Mussolini pure. con la cinta, e adesso cosa fa? Deve pagare l'assicurazione per tutte queste macchine. Avrà avuto minimo una cinquantina di macchine d'epoca. Se deve fare, deve pagare l'assicurazione per tutte queste macchine. Hai un miliardo della vita di Bucari macchine, cazzo. Fatta ben piacere. Allora, mi, ciao Otto, buonasera. Ciao Otto. Ma uno magari c'ha la passione, capito? C'ha la passione e se ne tiene. Questo qui ha un museo proprio di macchine, addirittura ti ho detto, c'è quella che usava Mussolini. Io l'ho spiegato la magari. Tu hai la passione, però devo avere furruri di nappa a mantimigli di macchine, beh, minchivi. Se no quasi no non te lo puoi permettere. Adesso diventiamo così come l'America, se non hai l'assicurazione non ti curano più. Se io non in sala vagogna e telefono a Rugup, cosa mi dici che non vi sono lunghi e non ci sono date. Boh. Adesso dimmi tu come si fa. Hai già attaccato fu, tra poco ti rugavano. Sì, non siate pessimisti, dai. Quando lo tolgono ci penseremo. Adesso per il momento c'è, lo usiamo, ne usufruiamo. E cosa ne usufruisci? Quando ti dici che esami non ti invadi, ne ti voglio vedere. A chi non bisogna dottore, non bisogna date, dice. Guarda, sto corridendo di vanno pigni. Io con l'elettrocardiogramma 4 mesi prima ho chiamato. E adesso ce l'ho fra poco, devo andare a maggio, gli ultimi di maggio devo andare a fare sia l'elettrocardiogramma che le analisi del sangue. Una gionfra, è una gionfra. Io ce l'ho a settembre invece, ce l'ho a settembre dal cardiologo. Ma io, anche la ragazza di Marco che lavora al CUP, mi ha detto che non ci sono buste, ha provato a guardare se ne trovava qualcuno da inserirmi, ma no, non ci sono buste prima, mi c'è già troppo che l'ho trovato. Hai Armando Diaz, ti ha voglia di lui in giro. Mi ha Armando Diaz, io, non andavo io, mi hanno messo oggi, mi hanno messo a coso. Allina. Sto andando lì, sto andando, da coso, come ti si chiama? A quello che c'è in via Armando Diaz, lì sto andando. E devo andare a settembre, c'ho l'appuntamento e tutto. E da Marungi, basta telefonare e ti vai dare l'appuntamento. Già lo so. Anche io andavo lì. Cazzo. Quel dottore anziano che c'era, bravissimo, quel cardiologo, cazzo, è molto visto. Allora vi sarà lo figlio, cioè Marungiu, il fratello, perché è morto anche Marungiu, il titolare di lì, no? E allora per un fratello, visto era ancora con me, quel cardiologo, e lo figlio di professor Ibave, un chivi. Già sono bravi. E suo attuato? E il figlio di professor Iba, quello, chi sei bravo. E c'è anche Marungiu, quello basso è Marungiu, il fratello del cardiologo che c'era prima, che è deceduto anche quello. Sul dottor Giraudi, a me mi aveva visitato Burubarabinzioni, bravissimo quel cardiologo, e il professor Giraudi era quello che ha insegnato a tutti i cardiologi, che travagliava a Sant'Ubrido, era giugunici da Sant'Ubrido, ha visto il dottor Giraudi. Io sto andando lì, a me mi assiste quello alto, mi assiste il giovane, quindi non ha giù problemi, fino a settembre non ha giù problemi, e poi mi deve fare anche l'affare per prendere le pastiglie. E quelli già sono bravi, ti farà l'ecocardio sicuramente, che ci sono tutti i parametri del cuore lì. A me mi va di così, vai a fare l'ecocardio prima, se no manco ti visito, ma via lì tu. E sempre va di così, prima va di l'ecocardio, l'ecocolorcardio, e poi mi faceva la visita cardiologica, mi faceva l'elettrocardiogramma, elettrocardiogramma, è bravissimo quel dottor Giraudi. Non volia mai messo visto. L'ultimo color cardio me l'aveva fatto il figlio di professor Iba, perché andavo da loro a farlo, no? Poi andavo a farmi la visita cardiologica da dottor Giraudi, a chi visitava Edue, perché chi si era un luminare. Io sono andato lì, avevo telefonato, ma avevo dato l'appuntamento e poi adesso sto continuando da lui. Ha dato l'appuntamento per settembre e vado a settembre. E più mi fa anche, come ti si chiama? Fate fastidio. Come ti si chiama? Per l'ipertensione. No, il foglio da portare alla dottoressa e alla farmacia. E la ricetta, da. Tipo. Un momento, come ti si chiama? Vabbè, briciola. Che piruso chi è? Ma ci sono andato da Cari. Da Giuliposo, ciao e vai. E di Lungare, anzi, della regia di Lungare a passeggiare, no, più Lungare. E la Lungare te la bocca da passeggiare. Ma che cosa mi tocca a farmi arrivare, no? E io sono a lavorare, cazzo. Ti adatte? Ti adatte? Vero già? Anzi, già eri mezzo incappucciato, già l'avevo con il freddo, io ero male che gocce. Se si prende freddo a capo da voi, so, cacchia mari. Così è, vai già, riprendi. Ehi, ciao Manuel, ciao, ben sentito, là. Mi ero spostato un attimino, sono andato a mettere il telefono in carica che si stava scaricando. Dottore, ma il guinzaglio da poi su Rugani? Si sta poi sul guinzaglio e l'udizè di Rugani va a cucciarti a passeggio. No, arrivava a me, direndimi. Mi dizia io a Camini. Certo che non ti devo dire. Ah, stai lì. Castellano della Travaglia di Vagare, da già sul passeggio di Rugani. Allora, a te lo immaginai, sudore, una scena, Di vero, certo, non se ne può più. E anche te non è così, in questo periodo sono le femmine in calore, mi tira una bacia là. Allora mio, non lo faccio più, pur sentendo il ubriaco non lo faccio più. A ponia presso alle femmine. No, il mio invece non sa nemmeno mangiarlo, mangia poco quando ci sono le femmine in calore, mangia poco e poi quando scende giù sta sempre fiaggando una battella da Mario Marco. E a chi intende Rubiago, Borareddo? E sta di sempre con Gugnelli, lo so, anche il mio fa così. Sentono l'odore da lontano loro. Della femmina in calore, quindi impazziscono, poverini. Ieri, cavolo, c'era Raja, un cane bellissimo, un boxer, femmina, che male un macio fuori Italia, di chi si manni grossi, e lo lascia libero, no, perché è bravo. E subito, come ha visto a te, si è andato incontro, siccome è in calore Raja, cazzo, subito l'ha riaggato e poi no, Raja, vieni qua. Per forza. Se no l'avevi abbattuto il travaglio, Dyson. Sì, lo bate il muro nell'anca a me, non me ne posso bisare, come se mi ribesse si attacca il ginocchio. E così mi aveva fatto il rugani di Claudio, a me, mi si è attaccato all'anca. Fa bene da pigliato. Quando ne hanno voglia. E chi dà la ragione? Ma comare, lui non lo fate più. Ma non ne zecca. Che a caso gliel'ho detto. Cercati una bella cagna, capi, una bella padrona, così ci accontentiamo tutti e due. Sì, sempre un interesse, sì, vabbè. Ho la mangia a mangiare a salire. Davvero me. Un attimo mi sono busato in chivi, ero con un cane che ero buscendo a passeggio e mi sono seduto nella pensilina del tram vicino a casa, no? E mi si posano i quattro figone, tutti accarezzandosi i cani. Ah, e tu non vedi, ti accarezzato anche un po' a me. Non aggiunge a me nulla. Cazzo, a Rugani si erano a cari niente, a me nulla. Io pure c'ho bisogno d'affetto laggiù, se sono messi a ridere. Ma cari, ma si fa carezzare da tutti. Sì, è bravo e no. Già è bravo, no. Non è come il tuo, là diciamo. No, ma sai, secondo le persone, anche se non le conosce, le scodinzola. Per dire, ci sono le farmaciste, le farmacie escono tutte dal banco a carezzarle. Però perché le conosce, capito? E di fare feste. Addirittura a una signora che non la conosceva l'altro giorno in farmacia. E poi che bello, posso toccare lei, te signora, non gli posso dire di sì e no, perché secondo le persone, certo, se si inchina magari e si fa avvicinare da lui, allora sì. E come ha fatto? Si è avvicinato e ha cominciato a carezzarle e lui scodinzolava. Poi fatto sta questa signora, quando se ne stava andando, allora gli si è attaccato all'anca. E questa signora ha detto, perché c'ho la caglia in calore, ha sentito l'odore. Vabbè, muro niente, la sente una padrona che arrivendi a che la intendi da prima arrivi a Ruvicolo, la intendi, buzzinoso, vieni Curti, vieni da babbo, vieni, lo so, e a chi a meno, ma non mi stupava l'ascensore quando veniva a casa tua, ti rammenti che tu lo vai dici, cazzo è, tu subito veniva l'ascensore a ciappami. Sì, lo fa ancora. Quando viene Marco, eccetera, lo fa ancora. Lo fa tuttora, andare a prendere la gente e accompagnarla dentro. Magari già usano i cassori, i bassoni che meritano. Deve essere che vanno a simpatia anche loro, non lo so. E infatti. Io lo sto facendo uscire con la museruola, Natali, non mi fido più perché già tre o quattro volte è successo che sono andato a carezzarlo, pur dicendogli di non toccarlo, sono andato a carezzarlo. Questa qua, cazzo, col manico, ah che bello, ho detto guarda non lo tocchi perché è un periodo che non lo capisco manco io, che siamo in tale persone. E questo ti ha detto, no, a me non mi fa niente, c'è il cane, ma a toccarlo, cazzo, e non era musichetto. E il marito gli ha detto, visto, ti ha avvisato, te l'ha detto, a colpa sarebbe stata tua se ti avrebbe musicato. Dicendo te le facendo. Sì, infatti, a chi magari ho infastidito per qualche cosa il cane, e allora non è detto perché è cattivo il cane, magari è infastidito per qualche cosa, è nervoso, e allora non si fa toccare, capito là? Molte volte succede così e purtroppo non lo capisce la gente. No, Natali, non accetta le carezze di tutti, è quella la storia. Ci sono persone a cui gli vanno bene e non li fa di nulla, ci sono persone che non le piacciono, e come noi, no? Noi le evitiamo le persone che non ci piacciono, e invece lui se vanno a toccarlo va a morsicare, quindi per evitare queste cose gli ho messo la museruola, quando esco gliela tolgo solo nel prato dove deve mangiare l'erba, e gli faccio mangiare un po' di erba e poi gliela rimetto. Sì, lo so. Purtroppo, cazzo, è un macello quando è così. No, questo già si fa carezzare, capito? A certi li abbaia, vedi? E allora devo dire, io sa che andiamo a musicarli. Anche il mio è come il tuo, non ti gridi. A certi li abbaia, a certi manco baricattoli, si va a carezzare tutto. Sono così di cane, non venuta di va. Infatti io sto sempre attento. Sai che c'è qualcuno che non gli va, magari va a morsicarlo. Ma io quando mi chiedo posso toccarlo, glielo dico sempre, è meglio di no perché è un po' diffidente come cane, dai. Manuè. Yeah. Ehi, già. E allora, tutto bene, sì. Ehi, tutto bene, dai. Oggi non mi ho fatto manco una cantata, ma non ne avevo voglia, mi sono dormito perché stamattina mi sono fatto un'ora e mezza di fila al capo per prendere l'appuntamento, la buona giocare da fare i piedi, la buona giocare da abbigliare a gare, insomma, una cosa dopo l'altra, mi sono stancato e mi sono addormentato, dopo un pranzo mi sono alzato quasi verso le 5. Ma dimmi una cosa, quando fai il coso di canto, cosa è non è in diretta quando lo fai con questa tipa qua? No, praticamente loro ti fanno la richiesta per cantare con te, capito? Fanno una parte loro e una parte la fai tu, capito? E quello già l'ho visto, però pensavo che erano dirette, non lo so. No, ci sono anche dirette. Ci sono anche, per dire, ci si chiamano room, sono room canto, dove tu vai a cantare e canti in diretta. Poi ci sono i contest che canti in diretta proprio. E perché non fai diretta? Allora, quando uno fa in diretta non è che si può trasmettere su TikTok, perché se su StarMaker, che è un'app che è a parte, capito? Ah, l'app compresa. Ho capito. Vabbè, ma è come se lo facessi in diretta, perché lei fa la parte sua e io faccio la mia. Non è che... Abbiamo cantato anche in diretta con la tipa che stai dicendo tu, con la bonazza stai dicendo. Sono tutte carine, la maggior parte le ho viste che sono tutte carine. E io me la scelgo per forza. Sono seduto. Io sono un buon gustaio, vero Natalino? Cazzo, Natalino deve fare anche lui a cantare. Anche tu puoi farlo. Lui non va giù tempo. Guarda, amico, qualche video faccio quando sto scegliendo, sono di riposo, con la moto, quando... anche se muovo a cantare. Invece ti scarica molto cantare, lo sai. Ti scarica, se sei nervoso ti scarica. Nel momento che canti ti senti leggero, brutto, scaricato. Ah, invece io quando ho problemi, che sono nervoso, non voglio sentire niente. Perché piccio. Se c'è una cosa che mi va male, allora sono comunque totale, non voglio sentire niente. Ti eclissi? No, io sono diverso, io... Mamma diceva, canta che ti passa la paura. E invece vado tranquillo che le cose vanno benissimo. Allora mi ascolto la musica, dai Astriti, AC/DC, queste canzoni qua, Alfa Blondi, quando è tutto ok però, eh. Io mi sono preso, collezioni di long play, cazzo, di quelli belli, come ce li hai tu, dai, c'ho Grise, c'ho... come si chiamano di America, tutti quei dischi di cazzo, non so quanto sono belli, mi ricordavo le cose dell'usato quando lo facevano la domenica, adesso non ci sto più andando, ma non so quanto ne ho comprato, anche 45 giri c'ho anche dove mi bidi salve su, quella è bella come canzone. Ma ne ho diversi, c'ho Lucio Battisti, tutti quelli belli, cazzo, tutte le canzoni belle, io da voi li conosco, quindi me li so scegliere, dai. Sì, io ho quelli di Gianni Morandi, Diana Cenettano, c'ho quelli di Albano e Rovina, però quelli di Cori stavo cercando, quelli dei... stavo cercando, cazzo, quelli non li trovo, di Pink Floyd, quelli cazzo non li trovo, ma la giusto. E ce l'ha anche Portobello, ce ne ha di quei negozi dell'usato che ce li hanno, quel negozio dell'usato che c'è al centro commerciale a Zurich, se mai andato lì è un bel. Al centro commerciale, ma dove c'è la piscina? Centro commerciale Azzurri, quello azzurri, quello che c'è a Luna e Sole, centro commerciale Luna e Sole, lì c'è sopra, c'è un negozio dell'usato. e quello c'ha un medico di questi dischi, di queste cose qua. Sì, sì, lo so, sono andato. Questo è poco e caro. Oh. Io già li ho divisi, c'ho Lucio Battisti che sono rari, c'ho anche coso, Domenico Modugno, dove c'è piange il telefono, eccetera, eccetera, quello lì, sono diversi. Certo, c'aveva questi due, non so se ce li ha ancora, ma penso che ve la valantura, perché ne vogliamo bene. C'aveva questi due in pianta sedia, uno della Kenwood e l'altro era della Manaf, completi, lo girati e tutto. Cazzo mi curia, mi pare che sei tanto ma se si vuole ricchiare così, quegli anni 80. Bello era bello, con il suo mobiletto, la curia zuppa. Io c'ho un piatto professionale della Sony, l'ho comprato, ti ricordi quando c'era l'emiciclo, quel negozio dove vendeva stereo, casse, tutte queste cose qua, che vendeva roba per discoteca, anche baracchini vendeva, il radio si chiamava. Sì, lì avevo comprato due altoparlanti, quelli da terra, cazzo mi era rimangato di mani, ti davo l'aiuto da fare con California. L'avevo pagato allora, ti sto parlando di delle vecchie lire, 800.000 lire, allora 800.000 vacche erano belle, ma belle erano in radica, belle, belle, belle, quelle da terra erano. E io l'avevo pagato 450.000 lire per il piatto. È un professionale di quelli che ci accende la luce, che ti illumina il disco, che c'ha la frizione, c'ha i pesi, c'è tutto qua. E suona bene, io l'amplificatore, ho comprato un amplificatorino in miniatura, di quelli piccoli, piccoli, piccoli, piccoli, che si attaccano dietro, non si vedono nemmeno, perché io ho il cubo della Sony, no? E praticamente c'ha 5 CD, può leggere, poi c'ha i nastri, c'ha due piastre per i nastri, la radio, c'è tutto quanto, e me pompa forte 200 watt, però l'amplificatore avrei voluto mettere un mixer piccolino, perché questo amplificatore sì, va bene, ti fa sentire la musica, ma non pompa più di tanto, capito? No, ma devi stare attento che non te lo brucia, perché sono piatto disco che sono fatti per rimanere così. Io lo sto cercando uno che ci abbia la cassetta, il giradischi e la radio, ne sto cercando uno così io. Guarda che ce n'era uno su internet, però bisognava aggiustare il mangiacassette. E l'altro ne voleva? No, ne voleva poco, mi pare 30 euro, una cosa del genere, lo stava svendendo, un cubo era. Però c'è scritto, le cassette, quello delle cassette bisogna dare una regolata, però tutto il resto funziona. Cos'era? Un cubo? È un cubo, ce l'hai presente quelli che hanno tutto quanto dentro, c'hanno, non sono quelli separati, con impianti separati, sono quelli tutti integri che hanno tutto quanto all'interno. No, ma non così, io sto cercando quelli degli anni 80. Quelli che si usavano una volta, che c'aveva sia la radio con la cassetta, capito, il piatto disco, come quello del Stereo 2000, solo che Stereo 2000 c'ha solo il piatto disco. E poi avevano fatto, dopo di quello, avevano fatto quello che c'aveva anche la cassetta con la radio. Ho capito. Sì, quelli a me piacevano quelli della Technis, tutti separati, cazzo, quelli erano belli davvero, che avevano l'impianto, tutti gli strumenti analogici, era bello da vedere. Mio suocero ce l'aveva, Philips, quando è morto se l'ha preso mio cognato, quello lì, però a me piaceva Technis, ce l'aveva mio cognato, uno Technis, c'aveva il piatto Technis, poi c'aveva le casse Marantz, l'amplificatore Marantz, ma tu sai come ti giocavo? Io ho quelli degli anni 80, lo stesso, tutta separati, della Kimbo, Terra Nera, non so se l'hai conosciuto, degli anni 80, amplificatore, doppia cassa, con CD, poi ho le casse della GBL, si sente bene, si sente abbastanza bene. E quelli erano impianti. Ce l'aveva le Jensen, questo amico mio, come casse. E la moglie dice che gli ha rotto le scatole perché erano troppo grandi, ce l'aveva da 200 watt, erano troppo grandi, allora si è preso le Bose. Un altro suono, mica suonavano bene quelle Jensen, ma quelle Bose, piccoline, ma piccoline, attaccate al muro. Tu devi sentire il suono di queste casse. Lo sono belle. No, io ho le GBL, basta la mano, cazzo, non ho altro neanche, perché se no cazzo mi rivala lo muro. Lo so, a me mi fa vibrare tutta la cristalliera, i bicchieri vibrano, se ne vanno avanti, se no tanto come vado ad aprire l'armadietto, poi li vada tutti in terra. E poi la musica la devi ascoltare bene quando ha una certa posizione, perché se la metti al massimo è casino e buco. Ma allora ci sono degli impianti che pur ascoltandoli a volume alto sono puliti, ci sono impianti che sono matracche, li senti male, a me quelli non piacciono. Io per dire, nella macchina mia c'ho un impianto fatto dalla casa, ma si sente benissimo, tu lo puoi mettere a tutti i volumi che vuoi, lo puoi regolare, alti, bassi, tutto quanto, ma si sente benissimo anche a volumi alti. A volte io, siccome mi sono fatto una pennina dove ci sono gli AC/DC, tutte le musiche degli anni 80, ne ho fatte miste, no, ne ho fatto un po' di adesso e un po' degli anni 80 e 90. E quando metto gli AC/DC, a tutto volume. Gli AC/DC sono belli, anche qua si sentono bene lo stesso. E questo qui è degli anni 80, fatti un corto, vai, 42 anni c'è questo stereo, eppure l'ho fatto revisionare tutto, l'ho fatto mettere le cinghiale cassette perché non funzionavano, erano secche, perché poi quando non le usi più queste cose si seccano. E adesso è un bombon adesso. L'ho procurato un mobile, lo stava buttando una signora, un mobile di una cristalliera, l'ho fatto a misura ci sta dentro. K-K. No, io me l'avevo fatto fare da Giulio il mobile, ce l'ho la vetrina, il mobile con la vetrina, me l'ho fatta fare da Giulio, sia quello sia questo dei baracchini, e anche quello dell'acquario mi ha fatto Giulio, me li ho fatti tutti e tre lì. A proposito dell'acquario, già acquari non ne hai altri, solo quello c'hai. Tanto sono interessata, lo so cosa, mettermelo anche uno io ce l'avevo sempre lo stesso su quando era a Milano, ce l'avevo uno da 120 litri, adesso mi sta venendo attorno al pallino di tornarlo a metterlo. Io ce l'ho, ti dico la verità, ho comprato tutti i pesci nuovi, ci ho speso sulle 350 euro, gli ho fatto il cambio dell'acqua, gli ho messo il mio condizionatore, tutto quanto, dopo un paio di giorni li ho trovati tutti morti. Sicuramente hanno medicato l'acqua, la sassa, ricordo la medica, non succede questo. Mi è passata la gana, però me ne sono avanzati due, come si chiamano, muppi. Un maschio e una femmina, hanno fatto i figli adesso, ci avrò una decina di figlioletti, piccoli, ancora piccoli, appena nati, dai. E in più c'ho qualche pulitore, le lumache, quelle grosse, quelle rigate. Però prima ho avuto anche i discus sono pesci che se non li sai tenere, che a me mi sono diventati enormi, belli, poi hanno una maestosità, sono il re dell'acquario di acqua dolce e tropicale. Ah, ma io ci metto pesci normali, pesci rossi, cazzo me la frutta. Adesso avevo pesci rossi e quelli a tre code, quelli con gli occhi di fuori. Poi ci anche di voi. Sì, lo chiamano pesce a tre colle, io prendevo quelli lì. No, io ho avuto sempre tropicali, capito? Pesci tropicali. Io ho avuto anche i pirania, poi sono diventati troppo grandi e li ho dovuti dare in un negozio di animali dove praticamente me l'hanno scambiati con altri pesci tropicali più piccoli e l'ha dato a un collezionista, a uno che aveva proprio la passione dei pirania, li ha venduti a lui. Erano belli grandi, chissà quanto li erano venduti, erano enormi. Ma quelli lì lo sai cosa facevano? Li mettevi la canna in fuori e saltavano dall'acqua e la prendevano dalla mano. Mia madre vecchia. E mi sarà che l'hanno fatto ciolato, li hanno messo un altro negozio dello zoo. Pesci, quando alla fine della bretella, l'Auscia, prima della rotonda dell'Auscia, ce n'è sulla sinistra, c'è un negozio grande, hanno fatto. Sì, a quando, quello lì prima era sulla strada di Alghero, io mi servo lì io. Prima era sulla strada di Alghero, adesso l'hanno trasferito lì. Prima era brutto perché tu facevi la strada della Presanita per andare verso Alghero lì e risultava subito dopo la curva, se non stavi attento ti tamponavano perché dovevi girare, subito dopo la curva dovevi girare. Sì, già lo so dove era. E quello lì è grave, non si sono entrati, pure qualche giorno ci entra a vedere. Io già ci sono entrato diverse volte, però i prezzi sono andati avanti, dico, io non... Quando li vendevo le calopsite io quando nascevano, no? Me le vendevo perché me le comprava tutte insieme, perché sennò per dargliele a 20 euro l'una e lui vendersela a 69 euro l'una era un po' una vendita in giro, dai. Devi guadagnare. Ma cosa c'hanno? Anche cani c'hanno lì o solo pesci? No, cani non ne hanno, c'hanno pesci, uccelli c'hanno pappagalli, canarini sono bellissimi, sono quelli fattore rosso, sono quelli rossi, bellissimi. Io ho avuto l'allevamento anche di canarini, quando avevo l'allevamento di canarini già li facevo i soldi perché me li vendevo. Però tanto per comprarti il mangime ci usciva, dai. Tu non l'hai più fatto. Poi li ho tutti venduti e mi sono preso i pappagalli, ma non è che abbia fatto un grosso affare, sinceramente. Erano migliori i canarini, almeno cantavano bene, i canarini facevano certi canti la mattina. I pappagalli fanno un canto brutto, a me non mi diano, grida. Fai il burrasco. Che cazzo. Solo che parlano, è quello che c'è, il bello è quello perché parlano, si dicono, i miei dicono, aio, vieni, aio, vieni, aio, andiamo. Ma che ne sei dato il tuo, era già così. Allora, chiacchierone, già. Ciao, buonasera, abbraccio. Ciao, chi c'è ruota? Guardate che c'è la voce tutta rocca. Chi è che c'è la rocca? Chi è Cinco? E allora lo sono io che lo sento così, io pensavo regolando e cose, anch'io lo sento un po' l'acqua, però pensavo fosse da me. Guarda, mi hai dato un messaggio, non potevo leggerlo. No, ti stavo dicendo, Gico, no, il fatto è questo, che io la mattina li libero e li pulisco le gabbie. Quando li pulisco le gabbie, quando ho finito, io dico, io venite, dai, forza, entrate. E loro hanno imparato quello, capito? Già bello, dai. Invece che quando ci aveva mia zia, che è morta, che poi gliela data alla figlia, se l'ha preso la figlia, era un bel indiano, quello nero, con le strisce arancioni sulle guance. Commentava qualche duro, ciao stronzo, coglione. Ah, il merlendiano, quello ce l'aveva anche Edoardo, un amico mio, si chiamava Checco. Le aveva insegnato, siccome al Cison c'hanno i gradi, no? E c'era il maresciallo che lui entrava tutto in puntino e cose. E gli avevano insegnato il maresciallo stronzo, un giorno è entrato, buongiorno, buonasera maresciallo. E lui, maresciallo stronzo, e lui, ma non l'avete insegnato voi? Quello non c'è cosa li faceva, ma il merendiano, quello è quello che parla meglio. Vai, Tomino. Torino ce l'ha avuto, mi sembra, il meridiano, no Torino? Ah, pari due. Caduto. Sì, in effetti, Emanuele, tu stai uscendo con una voce rocca. Tutto così, no, allora, ma pensavo che fosse da me, ho provato anche con la frequenza e non riesco manco con la frequenza a chiarirti bene. Invece dipende da te, perché anche a Tonino gli arrivi così, a me Tonino arriva benissimo. Come rauca? Sì, è rauco, perché c'è la salsiccia di traverso. No, secondo me sono le stazionarie, controlla le stazionarie. Stazionarie, la risultata, ma di una cosa. Ah, che non so le stazionarie, già ne dai. E la voce Emanuele, che c'è la salsiccia di traverso. Comunque, sabato c'è da Magnira stesso a mangiucchiare. Bella, bella, bella cena, La bandiera gialla. No, la bandiera gialla. Sabato sera, la bandiera gialla è chiuso. È un moto locale. Questo si chiama Certerotti. Dove è Certerotti? Mi hanno comunicato che di fronte ai fornitori della Uscia, qui dovrebbe essere il centro azzurro, se non vado errato. Adesso mi darò la conferma, gli ho scritto il messaggio. Ok. Viene Polotose numero 119. Allora dove c'è la situazione, dove abbiamo fatto il passaggio, ti ricordi? Infatti ho detto, ma è il centro azzurro, perché di fronte all'uscia c'è il centro azzurro, perché Blackstone non può essere, perché tutta l'altra parte, e poi me l'avrebbe scritto, invece no, Certerotti, oh davvero, tu ci mandi a porra, o c'erano anche i gnocchi della capitalese, oh io. C'è da mangiare, ma qui si paga. Poco, dai, già, con tutto quello che c'è, 15 euro sono una cazzata, dai. Allora, dunque, allora, c'è musica poi la sera a base di antipasto di terra, gnocchi alla sarda, scaloppine al vino bianco, più poi una bibita, euro 15, le bibite che si prendono di più si pagano a parte, beh, certamente, giustamente. Si chiama Certerotti, viene produttore su 119, fronte al produttore Auscia, ok? Ma sabato? Sabba, vuoi partecipare? Non lo so, chiedo se vogliono venire anche gli altri. Perché io devo dare comunicazione entro domani. Ah, devi prenotare? Sabba. Capito. Vabbè. Provo a chiedere agli altri se vogliono venire. Ma sabato eravamo in punti, eravamo un centinaio di persone. Ma tutti insieme in greco? Kappa, noi siamo un gruppo di 7500 persone. Praticamente mi sono scritto questo, si chiama ASD, camminare insieme, Sassari. E organizzate queste cene e cose così, ho capito. Acciugavito, andate in gruppo, quindi è per quello che vi fanno questo sconto, vi fanno pagare di meno. E poi invece abbiamo fatto camminata, Gargega e Pasquetta, noi ci abbiamo una canzone, ma che dai, devi camminare, fatto lo taglio fra Tamora, 7 chilometri, fare delle cascate, vedere cose antiche, c'è anche quello, non è solo ovviamente da mangiare. Quindi, lì abbiamo mangiato lo stesso, insomma, già sta bene, dai. Tutto sommato, secondo poi dove ti trovi, devi mangiare a sacco, devi proprio mangiare tu, capito? Ma poi ero a sedi, ma io non ci sono andato a sedi. Ci sono anche questi pullman che partono, che organizzano le gite, a me ogni tanto me lo mandano. Paghi un tanto e ti portano loro, poi ti riaccompagnano loro in pullman. Ci sono queste sagre che fanno, capito? Vanno a visitarli. No, qua in pullman non se ne parla niente, con le nostre macchine, capite anche perché non sono andato così lontano, io sì. Se quando in quelle zone, ok, se no io non ci vado, perché capita anche di dare passaggio alle persone. Vabbè, poi mi ha detto, ok, metti d'accordo con Andrea, che Andrea è il suo amico di Torino che vive a Sassari, ha avuto un incidente sul lavoro, è un cicconoppio, è alto 1,90, è un bel personaggio comunque, tranquillo, simpatico, sincero e mi piace. Siamo sempre insieme, infatti c'è appuntamento, vado io a prendere a Sassari e in Italia e poi ci si va sul posto. D'accordo, ok. Ma se io capito lì mi fanno mangiare oppure devo prendere l'appuntamento così? No, se tu non fai parte del gruppo, perché c'è Tonella e infatti Patrizia che controlla chi c'è, chi non c'è, chi sono stati contro quasi tutti, quindi non lo so Gianni, non è che uno parla e si mette in mezzo, non è così, no, perché i tavoli quali sono già predisposti per 8 persone. Quando non so se chi sta aderendo, se siamo in 30, 40, 50, siamo 20, non lo so, questo non te lo so dire. Io di per esempio di sabato scorso ho 100 persone, ma come immaginavo, penso un po'. Bene, bene. Già è bella la compagnia, dai, non c'è problema. Interessante che siamo persone tranquille, da buio. Basta. No, no, ma io pensavo che fosse un ristorante che magari andasse qualsiasi persona, invece lo sta organizzando proprio per voi questa roba qua. Scappa, meglio no, tutte persone guarda, sposate, marito e moglie, donne sole, insomma è, c'è una bella conoscenza, un bel cerchio di persone veramente simpatica, la verità. E tanto a questa età cosa vuoi fare? Ho già, io con 70 anni militato. E quindi mi voglio rilassare, intanto esco, vado con loro, una chiacchierata, una mangiata, insomma, ti passa una serata diversa, ti rilassi, tutto qua. E tu, cibomino, non ne prendi così? Ehi, non faccio mai con il capo mattordia, io dove lascio a perdere, anche la camminata. E vabbè tu, anche lavoro che fai, ti tocca a camminare. Sì, ma qua sei in gruppo, ho capito, è tutto diverso, dai. Poi mangi insieme, si chiacchiera più del meno, dai, comunque. Dai, perché ripeto, ti distrai, stacchi la spina praticamente a fine settimana e questo vuol dire molto per me, dai. E poi la conosco anche io, la Antonella, quella bionda. Quella bianca, Antonella Chine. E allora, la conoscevo duro, frequentava Santa Maria di Bisa. Lavora all'ospedale, mi? Sì, allora adesso lavora all'ospedale, prima non lavorava all'ospedale, è diventata osso dopo neanche un anno. Vabbè, comunque è molto simpatica, se la conosci, Francia Ferdinando cantato, è molto simpatica. Mentre invece Patrizia Lamperfido, praticamente la moglie di mio cugino, penso un po'. Sì, la conosco comunque, lascia perdere, conosco bene. Patrizia è diciamo un vice per il presidente più o meno. Perché Emanuele? Lascia perdere. Sì, era una così un attimo. Ma dai, io ho visto che è una persona abbastanza simpatica, attraente. Che bonazza, dai, avanti già. Vabbè, io lo so che siamo andati malissimo, fare femmine, non pacco. Chi sta parlando in FM? È Gianni che sta parlando in FM. No, no, non sono in FM. È che, vabbè, non me ne accorgo che c'era una cosa accesa. In FM, ho detto così, c'è quella che lavora allo Stroke Unit, bionda, la conosco anche io. Se la conosci anche tu, perché ti aggri. Oggi c'è amici tuoi, ma se voi mi date il coso giusto. Non lo so, dai, adesso le chiedo, perché loro organizzano a fine settimana all'ultimo momento, capito? Non organizzano mai prima, infatti dipende sempre dalle cose che ci abbiamo da fare, perché io ho un amico che lavora in ospedale, se deve fare i turni non ci viene, capito? Ma anche le notti, quindi se non fai i turni sì, non c'è problema. A me mi piace dove si canta, a me mi piace cantare. Ehi, ha comunque confermato centro azzurro. E dove c'è la squadra? Sì, ma dove rimani? Quella è facciata lì, Io la cosa c'ho qualche negozio, ma è roba di maniacchi, vive. Boh, hai visto, quello vende macchine, c'è da Lido 2, poi. Sì, dove essere sopra il bar, c'è anche la palestra, cioè. Ma lo è sotto. Là dietro c'è praticamente l'officina della Fordone. Dietro c'è un vetraio. C'è un vetraio e mi sembra che c'è anche un locale, cioè, hanno fatto. Non lo so. Vedremo, non lo so, la verità. Capito Gianni? Ehi, fai bene Tony, fai bene, non c'è problema. Fai bene. Io lo stesso, a noi andiamo sempre in 6, 4, dai. Tutti in coppia andiamo e giriamo per i locali, un po' a Porto Torres, cioè un po' andiamo lì a, come si chiama, a Blackstone, a cantare, dove ci canta andiamo. Anche là ci canta comunque. Anche dove eravamo solo c'era il karaoke, c'era pure, capito? Quindi. Vabbè, comunque, se volete venire a crearvi, a me queste cose piacciono perché, ripeto, tutta la settimana da una parte all'altra, fai quello, fai quell'altro, poi arrivi fine settimana, non sai cosa fare, si chiede la parte in casa, che non sei di età. Niente, mi sono aggregato, queste persone qua io so, veramente bene, mi rilasso. Vabbè, ma io non faccio manco parte del gruppo, loro fanno entrare solo quelli che fanno parte del gruppo, capito? Facevo parte di un gruppo, ma organizzavano gite propositane a Cagliari, qua, là, dovevamo incontrarci col gruppo, con quel gruppo di Cagliari, con le ragazze di Cagliari e cosa, a me fare viaggi così lunghi non mi piace più. No, ma guarda, non c'è bisogno di cattivi, cioè, io voglio far parte del gruppo e basta, non c'è bisogno di fare tanto, non si paga niente, quindi ho già, perché ti conosco, se poi tu conosci all'impegno ancora, capito, non c'è problema. Quindi, ripeto, 7.000 persone in tutto il gruppo. Ovviamente in molte gite non ci vado perché quando è lontano non ci vado giustamente. Ma quando è vicino io ben volentieri, capito? Quindi. Sì, sì, c'è la stessa persona, io l'avevo conosciuta quando c'è stato mio padre, ci siamo conosciuti lì, perché poi mio padre, vabbè, è stato in coma, quindi io restavo lì, ho conosciuto diverse infermiere, abbiamo parlato del servizio ambulanza, eccetera, mi conoscevano già perché portavo la gente, quindi avevo anche un trattamento diverso mio padre lì, capito? Però me l'hanno detto, se puoi portatelo via più presto, perché qua siamo troppo pochi, a volte non ce la facciamo a cambiarli, li lasciamo sporchi perché siamo troppo pochi. E comunque sì, il lavoratore ha detto, ma tu che l'hai fatto, comunque va bene. No, io sinceramente io mi trovo bene, poi a me mi rilassa, poi giustamente ci sono pochi, io ando sempre qua. No, sono una persona abbastanza tranquilla, serena, eccetera. Poi se ci scappa qualcosa, ben venga, cosa che dica, però io mi rilasso, sta con la spina un pochettino. E allora, Emanuele, ancora mangiato sai quel salsiccia? No, ho già finito il salsiccia, Già finito. Oh, l'amico tuo mi ha mandato una foto su WhatsApp di un Brasile rame, ma usato, cosa me ne posso? A me è paura, ma cazzo anche io, cosa va giù, la ciuffa va giù all'aria. Ma cosa me ne posso Brasile? Magari pure Manecci, mai usata, per 60 anni di vita, non mi interessa. Molto me lo dici, però poi che inizia anche cosa, io mi sono cucinato un po' di moscatini al sugo, che è la fine del mondo, guarda. Le ho tutte belle lavate, freschi, puliti, fatti cucinare con l'acqua loro stesso, forse una porciughetta a parte, olio d'oliva, e guarda, un poco. Ok. Va bene, signori, ci sentiamo, buon proseguo, statevi bene. Dopo Gianni, fammi sapere se ti interessa le parlo, se no fai come vuoi, ok? Ciao ciao, state bene, riprendete. Che dottori, se interessa anche agli altri ti chiamo, dai, se no vuol dire, se non ti chiamo vuol dire che agli altri non vogliono andare. Ok, ci sentiamo. Moscatini alla diavola per stasera. Scappa, senza però roba piccante, che a me non mi piace roba piccante. Non so mai che poi, se tiro aria brucio pure la puntata, no no. Sì, che è buona, si è messa, deve essere gradatamente, deve essere messo il peperoncino. Io lo metto, ma lo metto gradatamente, non ne metto troppo. Ne metto appena appena per dare sapore. Scappa. Ok, di nuovo, guardate la parte mia, ci sentiamo, ciao ciao, alle prossime, fammi sapere, io qui, se mi telefono dire che, eccetera, se non ti telefono dire che non niente da fare, va bene, ok, ciao ciao, ciao Manuel, ci sentiamo, ciao ciao. Ehi, ciao Tony, dai, mi approfitto anche io per chiudere, dai, ciao già, ciao Tony, ci riascoltiamo alle prossime. Ciao Tonino e ciao anche a Emanuele, dai, buona serata a tutti, ciao Natalia se si è all'ascolto. Ciao ciao. Hola, hola chicos.